L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale torniamo a parlare di emissioni di gas serra, ma lo facciamo dalla parte della ricerca, di coloro che studiano le emissioni di gas serra e dell'andamento delle emissioni di gas serra. C'è con noi in collegamento da Napoli il dottor Giorgio Matteucci, che è direttore dell'ISAFOM, l'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo e del CNR. Le diamo il benvenuto. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Perché vorremmo, direttore, presentare con lei quella che è un'attività che avete intrapreso da qualche mese con la formazione di una unità di ricerca specifica esclusiva della comunità italiana, un grande contributo della comunità scientifica italiana a un grande movimento di ricerca europeo. Allora, una è la JRU, quindi la Joint Research Unit, e invece il contesto europeo nel quale andiamo a inserirci è l'ICOS-RI. Adesso lei ci deve spiegare cosa fa l'una, cosa fa l'altra e come voi siete, no, all'interno di tutto questo gruppo di ricerca. Sì, grazie, esattamente. Allora, ICOS-RI sta per... Che è quella europea. Esatto, è quella europea, è una infrastruttura di ricerca, RI sta per infrastruttura di ricerca, su un osservatorio integrato del carbonio, Integrated Carbon Observing System, quindi un osservatorio per la valutazione degli scambi di gas serra tra, l'Europa, insomma, e diversi paesi europei e gli ecosistemi e l'atmosfera, quindi sia il fronte, diciamo, emissioni, sia anche la parte degli assorbimenti, del ruolo che gli ecosistemi agricoli, forestali, marini hanno nel regolare questi scambi, quindi, diciamo, il fronte emissioni in atmosfera da parte delle attività umane e la parte di collegamento con i siti terrestri, diciamo, e marini. All'infrastruttura di ricerca europea, ICOS-RI appunto, partecipano una serie di paesi, tra cui anche l'Italia. L'Italia, per partecipare a questa infrastruttura di ricerca europea, ha organizzato una Joint Research Unit, una unità congiunta di ricerca a coordinamento CNR, che mette insieme gli enti di ricerca, le università e anche alcuni enti territoriali che lavorano su queste tematiche da diversi anni, praticamente costituendo la parte italiana dell'infrastruttura di ricerca europea. È una modalità di partecipazione che consente, diciamo, la Direzione Generale di Ricerca della Commissione Europea, però, diciamo, al momento solamente l'Italia ha organizzato un sistema del genere per partecipare all'infrastruttura stessa. Quindi gli altri paesi come partecipano a questa infrastruttura? Ora, se voi siete addirittura 15, siete, no? Poi dopo magari facciamo qualche nome. Gli altri come fanno? No, gli altri si sono organizzati magari in consorzi o hanno degli enti che sono particolarmente, che coordinano l'attività in quel singolo paese, ma non hanno messo su una Joint Research Unit. Lo possono fare perché lo prevedono i regolamenti europei, però non l'hanno fatto perché magari hanno delle modalità anche organizzative diverse all'interno dei singoli paesi. L'Italia come mai ha preferito questa modalità della Joint Research Unit? Ha preferito questa modalità perché è una modalità che consente di partecipare a questo tipo di infrastrutture e allo stesso tempo ha una gestione, chiamiamola amministrativa, abbastanza agile rispetto a un ente con personalità giuridica, che non sarebbe semplice, nel senso da creare e mettere insieme 15 diversi enti e università in un nuovo ente giuridico. Chiarissimo, quindi è anche una questione proprio di praticità dello strumento, insomma, che consente di muoversi più rapidamente, meglio. Esatto. Allora, abbiamo detto ovviamente del CNR, che diciamo sovrintende, no? Coordina la CRU. Coordina, poi c'è il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, l'Università degli Studi della Tuscia, giusto per far qualche nome, sì. CREA, Enea. Diciamo l'Università di Padova, di Genova, di Sassari, vedo ce n'è. Di Genova. Ovviamente il CNR e gli enti, diciamo, un po' più grandi partecipano con diversi istituti, come nel nostro caso. E quindi diciamo la partecipazione poi si amplia in questo senso qui. C'è anche l'aeronautica militare, perché AICOS si occupa anche di atmosfera, e quindi per esempio c'è anche l'aeronautica militare, o c'è la provincia di Bolzano, che ha un sito dove fa queste cose da molto tempo. Ecco, su questo volevo, se possibile, dire che l'Italia ha avuto storicamente, diciamo, AICOS RI, l'infrastruttura nasce dopo un percorso cominciato sostanzialmente 20 anni fa, nel 95-96, con il primo progetto di misure degli scambi tra ecosistemi e atmosfera nel settore forestale, coordinato proprio dall'Italia, dal professor Riccardo Valentini dell'Università della Tuscia. E da lì, piano piano, ovviamente il progetto era europeo, quindi c'erano anche altri paesi, però si è arrivati al fatto che l'Europa ha riconosciuto l'importanza di avere un'infrastruttura del genere oggi, che il discorso dei cambiamenti climatici, delle emissioni di gas serra è fortemente prioritario. Fra l'altro, recentemente anche il World Economic Forum ha riconosciuto che il cambiamento climatico è probabilmente il rischio maggiore che abbiamo nel futuro. Nel futuro, ma già anche da questi anni. Un'ultima cosa, diciamo, rispetto al ruolo dell'Italia, diciamo, questo ruolo di leader europeo è stato anche riconosciuto dal fatto che uno dei centri tematici dell'infrastruttura europea, che ne ha tre, un centro sugli oceani, un centro sugli ecosistemi e un centro su legato ai servizi di fornitura d'aria, cioè il centro sugli ecosistemi, quindi l'Ecosystem Thematic Center, è coordinato dall'Italia, dal Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici e dall'Università della Tuscia, segnatamente all'interno della GERU. Quindi confermando, diciamo, un ruolo importante per l'Italia in questo campo, ecco. Esatto, diciamo un ruolo di coordinamento della parte ecosistema, insomma. Dunque, ovviamente tutti questi attori contribuiscono, diciamo, no, in vari settori alla ricerca, il cui obiettivo, abbiamo detto, è un monitoraggio, no, un controllo, una previsione, forse anche poi dopo per il futuro, rispetto a quello che stiamo facendo. Sì, esattamente, è un sistema osservativo, infatti ha una serie di protocolli che poi sono stati decisi a livello europeo per fare questo tipo di misure sugli ecosistemi in atmosfera, e quindi per la misura delle emissioni e la valutazione di quanta parte di queste emissioni poi finisce in atmosfera rispetto a un bilancio complessivo anche col ruolo degli ecosistemi e sugli ecosistemi marini, diciamo sul mare. Quindi è un sistema osservativo che fornirà dati in tempo reale saranno dati pubblici e presi con protocolli definiti, e che quindi avranno una certificazione di uniformità, esatto, dei metodi con cui vengono raccolti in tutta quindi Europa. Insomma, poi dopo non si potrà discuterli, ecco, perché saranno stati stabiliti insieme e condotte ricerche con questi standard. Sì, diciamo l'obiettivo è quello. Poi ovviamente in campo scientifico la discussione ci può sempre essere, però sulla base di una certezza che i dati presi qui in Italia o qui in Campania, anche sul sito che l'istituto tramite il dottor Magliuno coordina, vengono presi, sono presi nello stesso modo in Francia, in Finlandia o in Germania, e che quindi la parte metodologica, ad esempio, non potrà essere diciamo, presa a giustificazione per differenze che si vedono nelle misure che facciamo nei diversi siti, ma saranno legate a aspetti della tipologia dell'ecosistema, del clima, della gestione o di queste cose qui. Dunque le chiedo un'ultima cosa prima della pausa che facciamo, poi dopo il dottor Magliulo, che lei è un po' così presentato, insomma, in quest'ultimo passaggio ci racconterà bene cosa si fa in Campania. L'ultima curiosità riguarda i tempi. Voi come JRU siete stati presentati a ottobre, mi pare, dell'anno scorso, quindi i lavori sono partiti, direi, a questo punto. Che come procederanno, ecco, che tempi vi siete dati, che obiettivi ci sono? Allora, la GRU è la formalizzazione della partecipazione dell'Italia a ICOS. ICOS è un'infrastruttura europea che nasce con una prospettiva ventennale, quindi diciamo ha comunque una prospettiva da qui ai prossimi 20 anni. Diciamo che a livello europeo c'è un piano operativo per 5 anni, nel senso che si sa che si andrà avanti per 20 anni, il piano operativo è per 5 anni, e quindi l'impegno dell'Italia è sicuramente per i prossimi 5 anni, e in questa fase qui si sta passando alla certificazione, per esempio, delle attività dei siti, nel senso che l'infrastruttura europea sta dando una sorta di bollino, quello che si chiama un labeling, diciamo in inglese, ai siti, certificando che questi siti proposti dai singoli paesi, perché poi sono i singoli paesi che lo propongono, si conformano a quelle che sono i protocolli e quanto richiesto proprio da ICOS RI, e quindi possono entrare a pieno titolo nel sistema osservativo, perché hanno questa certificazione che si conformano alle pratiche ICOS. Questa è una cosa che è partita negli ultimi mesi, e proprio recentemente, inizio di questa settimana, si è conclusa la prima fase con una prima certificazione, che poi verrà approfondita nei prossimi mesi. Ma la prospettiva di lavoro è, diciamo, nel lungo termine ventennale, e sicuramente per un 5 anni di piano operativo. Perfetto, adesso entriamo nello specifico e diamo il benvenuto a Vincenzo Magliulo, che è primo ricercatore presso ISAFOM. Grazie, buongiorno. Allora, buongiorno a lei. Parliamo nello specifico di uno di questi siti su cui poi dopo si compirà, no, questa ricerca. Si è ovviamente un sito che è già fa già parte della rete dei siti in cui si studia. Borgo Cioffi in particolare, e quindi restiamo in Campania. Cosa fate a Borgo Cioffi? Questo per far capire anche agli ascoltatori che tipo di ricerca si conduce per poter portare i risultati di cui abbiamo detto nella prima parte della trasmissione. Sì, il progetto ICOS è sicuramente una grande opportunità per finalizzare a livello europeo attività che vengono portate avanti da ISAFOM a partire dal 2001, perché è vero che la rete si costituisce adesso, però questi sforzi congiunti a livello mondiale sono partiti 20 anni fa, e anche noi in Campania siamo partiti appunto nel 2001, quindi molti anni fa, con questa installazione stabile presso un'azienda agricola del Salernitano, quindi a Eboli, in località Borgo Cioffi, un'azienda bufalina, quindi tipica, rappresentativa di un certo tipo di realtà economica della zona, e in questa azienda abbiamo costituito un osservatorio, quindi un laboratorio di campo stabile, che è in grado di misurare in maniera continuativa, quindi tipicamente raccogliendo delle serie storiche con cadenza semioraria, di tutta una serie di variabili ambientali. Queste variabili ambientali sono, potete immaginare, la radiazione solare, la velocità del vento, la direzione del vento, i parametri di turbolenza atmosferica, e naturalmente le concentrazioni dei gas serra, che sono quelli che tutti noi mettiamo quotidianamente sotto accusa per l'esperienza più o meno quotidiana che viviamo di un clima che è prima che cambia sotto i nostri. Ne abbiamo insomma, no? Le prove provate, direi, in questi giorni. Sì. Prego, no, scusi se ho tolto la parola. Prego. Dicevamo, quindi, voi fate questo tipo di attività, addirittura diceva con cadenza semi-oraria vengono raccolti questi, sì, dati. Diciamo, il rilevamento delle variabili ambientali avviene in maniera automatica per la maggior parte, diciamo, delle grandezze ambientali. Quindi ci sono degli acquisitori, ci sono dei sensori che rilevano tutto questo bouquet, tutto questo, diciamo, ventaglio di grandezze fisiche. Si interviene poi ovviamente in maniera assistita, a cadenza regolare, per rilevare tutta una serie di altre cose che sono più strettamente connesse con lo stato della vegetazione, quindi la crescita, la produzione agricola e poi ovviamente con il suolo, quindi contenuto di determinate sostanze nel suolo, il contenuto idrico nel suolo, tutto ciò che ci permette poi alla fine di chiudere un bilancio del carbonio e quindi di capire effettivamente quanto il nostro sistema agricolo sta contribuendo in maniera concreta, in maniera quantitativa alla variazione del clima e le potenzialità soprattutto che ci possono essere di mitigazione, perché è vero che i sistemi agricoli sono sotto accusa, quindi in qualche modo si rinfaccia di emettere quantità di gas serra, perché sappiamo che la risicoltura emette forti quantità di metano, che la zootecnia emette metano e protossido di azoto, che i suoli emettono protossido di azoto, oltre a tutta l'anidride carbonica. Però è anche vero che l'agricoltura è una grossa carta da giocare per la mitigazione dei cambiamenti climatici, perché è possibile, modificando e diciamo ottimizzando la gestione agronomica, è possibile migliorare, è possibile aumentare la quantità di carbonio che viene sequestrata in maniera stabile nei suoli. Quindi insomma si potrebbe parificare, diciamo. Parificare o addirittura giocare, diciamo, un ruolo attivo, quindi in qualche modo creare un offset di queste emissioni e arrivare a un bilancio che è neutrale o addirittura attivo, quindi arrivare a una situazione in cui si riesce a sequestrare nel suolo in maniera stabile del carbonio. Ma si potrebbe facendo qualcosa di complicatissimo o si può, diciamo, in maniera, no? Basta ragionarci e farlo con criterio fin dall'inizio? Diciamo che è un percorso che è stato intrapreso molti anni fa, quello dell'ottimizzazione delle tecniche agronomiche, che riguarda però ovviamente non soltanto la gestione agricola, quindi la gestione dei seminativi, ma un po' tutto il comparto agricolo e agroalimentare, quindi la zootecnia fondamentalmente. Le parlavo prima di forti emissioni di gas serra dalla zootecnia e quindi dalle concimaie o dalle vasche di raccolta dei liquami, o anche le stesse emissioni ruminali dei bovini, degli animali, dei poligastrici. Quindi si tratta di intervenire un po' su tutto questo spettro di attività e ricercare in maniera sistematica quelle che sono le pratiche virtuose che consentono di diminuire le emissioni e dall'altro lato, come le dicevo, di aumentare il sequestro stabile di carbonio nei suoli. Quindi lì a Borgo Cioffi voi fate uno studio di quello che accade, diciamo, normalmente. Esatto. E uno studio di quello che è la sperimentazione, insomma, del risultato della sperimentazione. Sì, quindi diciamo ci sono anche degli... che AICOS è fondamentalmente osservativa, quindi nel senso che non esistono esperimenti di tipo manipolativo. Quindi gli studi agronomici classici in cui si crea all'interno di un campo coltivato, si creano delle parcelle, in ognuna di queste parcelle si impone un trattamento sperimentale, quindi una dose di azoto, una quantità di acqua oppure una modalità di semina o di concimazione. E poi si va a vedere con, diciamo, i mezzi che la statistica ci mette a disposizione quello che succede e si tirano delle conclusioni, diciamo, quantitative. Questi esperimenti di tipo manipolativo non sono, senso stretto, parte di AICOS. Quindi AICOS è fondamentalmente una rete osservativa per cui quello che viene generato a vantaggio della collettività, a vantaggio della comunità scientifica globale, quindi in senso in senso planetario, sono queste serie storiche, quindi la raccolta sistematica in un certo sito e quindi in un gran numero di siti europei di queste grandezze. Evidentemente quello che viene poi a valle è un lavoro di analisi che già si sta sviluppando in maniera globalizzata, cioè questi siti generano continuamente queste serie storiche, le serie storiche sono raccolte in alcune base dati e queste base dati sono accessibili a tutta la comunità scientifica mondiale, per cui quotidianamente ricercatori di tutto il mondo possono scaricare questi dati e scaricarli in maniera globale, quindi esistono dei set di dati in cui ci sono i dati di Cioffi, ma i dati anche di altre decine, centinaia di siti in tutto il mondo, perché come esiste la rete europea ICOS, esiste poi l'equivalente americano, l'equivalente asiatico, e quindi e condividete già gli stessi strumenti per lo studio? Sempre più articolato. Scusi, condividete già gli stessi metodi, la metodologia è già condivisa? La metodologia è assolutamente condivisa a livello europeo, perché ICOS sta standardizzando, come diceva Giorgio prima, diciamo tutte no, pensavo le... ai colleghi asiatici o americani. Diciamo che in linea di massima sì, anche se ICOS è qualcosa di più, è effettivamente il tentativo di creare dei protocolli comuni che vengono seguiti in maniera molto stretta, perché prima parlavamo di labeling, quindi parlavamo di un bollino di qualità che ogni sito deve avere, quindi ogni sito che faccia questo tipo di lavoro si sottopone a uno screening e deve dimostrare di misurare in maniera ottimale e quindi di seguire in maniera esatta tutte le raccomandazioni che sono nei protocolli. Dirò soltanto che in Italia esistono due siti cosiddetti di livello 1, quindi che sono in grado di raccogliere informazioni su tutti i gas serra, e sono quello di Eboli Borgo Cioffi per quanto riguarda l'agricoltura e la tenuta di Castelporziano, la tenuta presidenziale di Castelporziano per quanto riguarda i boschi. Ok, chiarissimo, quindi insomma siamo qui stiamo ovviamente nell'ambito dello studio sugli ecosistemi, no? Poi ci sono altri siti anche in Italia, non di livello 1 a questo punto capisco, altre stazioni. Altri di livello 2 che misurano tutto, però non sono attrezzati per le misure di gas serra non CO2, quindi parliamo del protossido di azoto e del metano. Ok, no, ma pensavo ci sono poi le stazioni di rilevamento e osservazione per, non so, immagino l'atmosfera o gli oceani, ma non fanno parte di questa rete specifica degli ecosistemi nella quale siete inseriti voi. Esattamente, noi siamo nella rete ecosistemica, poi esistono delle reti anche per quanto riguarda gli oceani e per quanto riguarda l'atmosfera. Benissimo, allora, visto che siete già partiti con i lavori, magari ci diamo appuntamento un po' più avanti, tra qualche mese direi, perché sono cose che ci vogliono mesi per poter studiare, no? Poi anni, abbiamo sentito addirittura durerà il progetto, ci risentiremo magari più avanti per fare un piccolo aggiornamento su come vanno le cose. Nel frattempo io vi auguro ovviamente buon lavoro e anche di continuare a conservare questo primato che ha l'Italia in questo campo di ricerca. Grazie, cerchiamo di difenderci. Dai, difendetevi. È possibile... sperando che il Ministero della Ricerca e gli altri ministeri ci supportino, ecco, anche con le risorse. Bravo, esatto, questo è fondamentale, perché altrimenti la ricerca non va da nessuna parte, insomma si arena là dove non ci sono fondi, che poi immagino non saranno fondi, diciamo, che manderebbero in default lo Stato, ecco. Assolutamente no, e una sola notazione: quando la decisione di partecipare alle infrastrutture di ricerca europee è una decisione del paese, cioè, diciamo, ovviamente c'è una spinta del mondo della ricerca e se il mondo della ricerca è arrivato a livelli, diciamo, di eccellenza, aiuta ovviamente il paese a scegliere se partecipare a infrastrutture come può essere anche il CERN di Ginevra, però in questo caso la scelta è ufficialmente da noi. La fa il Ministero della Ricerca ufficialmente con un decreto del Ministro. In alcuni paesi addirittura c'è un voto parlamentare per partecipare alle infrastrutture di ricerca europee, dipende da, e quindi è il paese che ha scelto di entrare e quindi speriamo che tutto questo venga poi confermato con le risorse. Quindi che il Paese resti in questi ambiti di ricerca. Grazie a Giorgio Matteucci, direttore dell'ISAFOM, l'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo presso il CNR. Grazie anche a Vincenzo Magliulo, che è primo ricercatore sempre presso ISAFOM. L'appuntamento con l'altro pianeta è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.